Cocomani. Sociale, c'è Costantino che fa karaoke. Ah, io sono un terremoto. Ma la macchina, che dato un figlio non i biglia avrebbe. Approfitta, eh? Ma mi pare che sa, non so neanche dove sia. Cazzo, non sa dove via Zara? Anto. Non so dove via Zara, ma non so dove è il circolo. Esatto, brava, Concordia. Scendi giù, giri a destra, vai dritto, scendi a sinistra, poi c'è una specie di piazzuola giù, no? E di fronte ti trovi il circolo. Ma ce n'è, c'è parcheggio, ce n'è. A bizzeffa. Capo, adesso una visita tra tanti che sto baracchino. Andendia. Sì, sì. Adesso vediamo un po' se c'è Daniele. Daniele, ci sei? Un po' ci esco, se vuoi salire. Ci sto pensando, boh. Pensa. Che beghe. Non sei riuscito, Anto. Ho detto che ne sono tornato da Olga, Ma che altro sei sceso? Ne sono tornato da Olga. Sto uscendo già. E intanto non esci. Con la macchina tua sei sceso. E già. Raggio. Raggio fatto due calvo in scala. Quasi. Correndo, vedi. È un pezzo che è stata buona. L'abbiamo tirata al massimo. Ho capito, Sembra che il motore si sia sciolto, lo sai. Meglio. Comunque sono andato. Lascia un attimo. Dai. Quelli che vi ha portato a essere cinesi per l'autoradio, sempre anche quella lì, sette fatte. Sette fatte per. Adesso non mi ricordo, boh. Un aggiumigliato. Adesso prova a comprare quella che c'è su internet. Gli mando un messaggio prima. Sono quelle le caratteristiche, vediamo un po'. Perché le casse buone ci sono nella mia macchina, tu non devo andare a pulire la maneta, ma deve sentire bene la radio, capito? No, quello che ho preso, ce ne sono di due modelli, ce ne sono, quello che ho preso io e quello che costa di più. Ho capito, però. È un casino. Vai, che già andavo serio a futtidini, è che non c'ho le casse dietro, se non sarebbe stato ancora meglio. Cioè, funziona, va alla grande, va. Sì, senza dubbio, Anto, stai dicendo che non va, però... È stato speciale, già. Per le mie casse, quelle sono casse buone, capito, si sente bene, però l'autoradio vicino non si va un cazzo, non si va niente all'autoradio. Infatti, voglio prendere, adesso gli mando un messaggio. Via, futtidini che si pone che ciò che va giù io funziona, beh, funziona. Luca, ci sei? Sono qua. Eccomi qua. Mi sa che già vengo, il tempo di mangiare, adesso ho ordinato qualcosa da mangiare. Io posso mangiare un panino. E allora. Roba di goi, se lo vediamo 23. Ah, io non li piglio goi.